è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:36 minuti in questo momento, i numeri per chiamarci in diretta, il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzaretta radio24.it. Iniziamo subito con il TG2 con i titoli. Tre operai uccisi dalle esalazioni in una raffineria in Sardegna, erano in quattro, uno si era sentito male all'interno di una cisterna, i compagni hanno cercato di aiutarlo. Opel, domani la scelta, Marchionne fiducioso dopo l'incontro con la Merkel, colloqui costruttivi, ma è diventata una lotteria, Tremonti, partita che si gioca tra governi. Era specializzata nei furti ai negozi, la banda di rom scoperta a Parma, auto e furgoni usati come arieti per sfondare vetrine e rubare casseforti. Roma si prepara alla finale domani di Champions, Manchester United e Barcellona già nella capitale, attesi 50.000 tifosi, scattano le misure di sicurezza. Torna a crescere dopo 6 anni il numero dei fumatori, un italiano su 4, oltre i 15 anni, non rinuncia alla sigaretta, cresce la percentuale di donne e giovanissimi. Va bene, sentiamo anche i titoli di Studio Aperto. Tragedia in Sardegna, morti 3 operai mentre lavorano in una cisterna nella raffineria Saras della famiglia Moratti. Per aiutare uno di loro che si era sentito male a causa delle esalazioni di azoto, in 2 sono stati uccisi per lo stesso motivo, mentre un altro si è salvato. Maturità, manca un mese, scatta la corsa al recupero. Per essere ammessi è necessaria la media del 6, che comprende anche il voto in condotta ed educazione fisica. E per la prima volta verrà utilizzato il codice fiscale dei singoli studenti per seguire momento per momento ogni fase dell'esame. Bene, siamo tornati in diretta alle 18:38 con il numero di telefono e fra poco inizieremo a prendere le vostre telefonate, che è sempre il solito 800 24 00 24. Tutti dicono che ci sono cose più importanti di cui parlare, probabilmente la vicenda delle ennesime morti bianche in Sardegna e poi ancora le notizie sulla crisi economica, eccetera, eccetera. Però poi alla fine tutti parlano di questa vicenda e tutti sono in attesa di qualcosa che può accadere. Si parla naturalmente del fattore N, cioè di Noemi. E allora ecco sbizzarrirsi altre persone, altri critici. Gad Lerner in primis, il quale dice che le italiane alla fine ne fa una questione sociologica, cioè di rapporto che secondo lui sarebbe stato trasformato negli anni tra Berlusconi e le donne, cioè l'immagine che Berlusconi ha trasmesso al paese del rapporto tra uomini e donne. Secondo Lerner le italiane non gli perdoneranno quanto accaduto. C'è una discrasia tra la società reale, il ruolo che le donne con molta fatica si sono conquistate nella società, il rispetto che cercano di imporre della loro dignità e della loro sessualità, e viceversa la cultura popolare di questo paese, rappresentata però anche ai massimi vertici, che passa attraverso i rotocalchi popolari, che passa attraverso la televisione a ogni ora del giorno, e che è legittimata dal massimo vertice del paese. Questo secondo me ci vorrà del tempo, ci vorrà un anno, ci vorranno 2 anni forse, ma le italiane non glielo perdoneranno. Ma queste le considerazioni di Gad Lerner, che poi parla di del modo in cui secondo lui sarebbe ridotta l'Italia, o comunque l'immagine del potere, così come ci viene trasmessa da Berlusconi, cioè quella di un bordello anni 50. La questione di sostanza che lui ha dovuto ammettere ieri per la prima volta con il Corriere della Sera è che Silvio Berlusconi è un signore benestante, molto ricco, anzi il più ricco d'Italia, che nel Capodanno 2008-2009, nel pieno della recessione economica, della sobrietà del paese, pensa che la festa si faccia mandando a fare la spola al suo jet privato per portare 30 o 40 ragazzine di contorno, di ornamento. Non mi interessa sapere nulla di più di dettagli di come si svolgano gli spettacolini, perché ci siano queste ricompense in gioielli alle signore o signorine o minorenni che partecipano. Non mi interessa nessun dettaglio pruriginoso, mi basta questo per definire, diciamo, un paese che si è abituato a trasferire in televisione, quindi su vasta scala, così l'immaginario del bordello degli anni 50, né più né meno. Questo Lerner, quello che non più tardi di domenica ha definito Berlusconi, credo, un vecchio bavoso. 800 24 00 24, nel suo blog, dove si usa sempre un linguaggio particolare, però pur sempre di vecchio bavoso si trattava. Giampaolo Panza, sul voto femminile, anche lui pensa che Berlusconi perderà voto femminile. Penso che questa storia avrà un'influenza sul suo elettorato, soprattutto sull'elettorato femminile non giovanissimo. Berlusconi è molto popolare tra le signore italiane dai 40 in su. Per me una signora dai 40, io ne ho 73, è quasi una bambina. Quindi. E quindi avrà, e tra l'altro mi pare di capire anche se è vietato parlare di sondaggi o no, si possa dire. Ho letto sui giornali questa mattina, in particolare sul giornale al quale collaboro, cioè il Riformista, che i sondaggi lo danno in flessione di 2 o 3 punti per questa vicenda. Questo Giampaolo Panza, che prendendo spunto anche da alcuni sondaggi pubblicati su diversi giornali, crede che Berlusconi può perdere consenso in questo frangente per questa vicenda. Emma Bonino e le menzogne, un'assimilazione che viene fatto, un paragone che viene fatto con il caso Clinton, secondo me non sta né in cielo né in terra, però insiste molto la Bonino su questo, sentite. Tradimenti o altre attività coinvolgono milioni di persone, dai potenti ai non potenti. La vicenda Clinton dimostra che il problema infatti non è quello, il problema è quello della menzogna in pubblico. Questo dico che non è, come dire, disdicevole da un presidente del Consiglio. Le sue attività private mi interessano veramente niente, non me le attribuite, non mi riguarda. Dunque le menzogne, ma il caso Lewinsky non è assolutamente paragonabile a questo caso. In ogni caso, la commissione d'inchiesta, sembra che la Bonino a un certo punto proponga, anche se poi non è una proposta vera e propria, che si faccia addirittura una commissione d'inchiesta parlamentare. In un sistema americano fu fatta poi la commissione d'inchiesta, che non aveva attenenze, come dire, ad altre, ma semplicemente se il presidente avesse mentito o no nel raccontare la propria versione della storia. Come Quindi dire, lei proporrebbe oggi una commissione d'inchiesta? No, ma basta che il presidente, io credo, deve sentire per il bene delle istituzioni la responsabilità di dire o comunque di far luce su tutta una serie di contraddizioni di sue dichiarazioni. Va bene, vi propongo un altro tema, che è l'atteggiamento che ogni tanto si ha nei confronti della pubblicità. E allora vi faccio ascoltare questo spot, che è uno spot di una macchina, non ci importa niente di fare pubblicità a qualcuno, è lo spot di una macchina della Renault. Lui è Daniele, mio figlio. È nato dal matrimonio con Elena, la mia prima moglie. Ah, è stato un matrimonio strepitoso. Adesso lo porto in piscina per il corso di nuoto. Poi riparto e vado a prendere i gemelli Marco e Luca, gli altri 2 miei figli, cioè di mia moglie, la mia nuova moglie. Li prendo e riparto subito a prendere la mia terza figlia, la piccola Sofia. Ah, Sofia, è mia figlia e la figlia della mia attuale moglie. Insieme andiamo a recuperare i 2 gemelli che avevo dimenticato. Poi prendo Mattia, che ho appena saputo che è mio figlio. Insieme torniamo tutti a casa. Prima di riaccompagnare Arturo, il figlio del vicino. New Renault Scenic, facciamo posto a tutte le famiglie. Bene, insomma, la macchina, avete sentito di che macchina si tratta. La cosa più incredibile, secondo me, è che l'arcivescovo di Bologna, Carlo Caffarra, si è molto arrabbiato, e anche alcuni giornali cattolici bolognesi, perché questo spot, che dà l'idea di una famiglia con di più famiglie, anzi, dunque di persone pluridivorziate, pluririsposate, sarebbe inammissibile che in un paese dove si riconosce la monogamia come valore, quel filmato deve essere sospeso. Mi è capitato di vedere uno spot che per promuovere la capacità di un'auto esalta la poligamia, un'auto che consente all'uomo di raccogliere tutti i bambini avuti dalle mogli, cose inammissibili in un paese che riconosce la monogamia come un valore indiscutibile. A parte che in questo caso la poligamia non c'entra perché si tratta palesemente di divorzi. Questo è il parere dell'arcivescovo di Bologna, 18:46. Naturalmente la cosa ha fatto aumentare, come è evidente, l'attenzione nei confronti di questo prodotto, di questa macchina. Il direttore del Riformista, Antonio Polito, buonasera. Buonasera. Senta Polito, qualcuno, in primis l'ho sentito ieri o l'altro ieri, il leader radicale Emma Bonino e alcuni esponenti del Partito Democratico, ma non solo, qualche giornalista anche, fa un paragone tra la vicenda Berlusconi-Noemi e Clinton-Lewinsky, un paragone che secondo me non sta né in cielo né in terra, non solo perché i sistemi sono diversi, non esistono delle procedure che esistono negli Stati Uniti per mettere sotto accusa un presidente, ma proprio perché i casi proprio sono diversi, o no? Sì, secondo me sono dei casi molto diversi. Intanto bisognerebbe ricordare, perché la cosa raramente viene ricordata nella sua nei suoi dettagli, che Clinton non è stato sottoposto a impeachment per quella vicenda, perché poi alla fine il Senato votò contro, cioè non ci furono abbastanza voti per l'impeachment. Inoltre si trattava di una vicenda diversa, perché in quel caso il Presidente degli Stati Uniti, di aver mentito a un giudice indipendente che era stato nominato per indagare sulla vicenda. La vicenda nasceva da una dichiarazione denuncia della vittima, tra virgolette, insomma, poi ognuno può pensare a come vuole, cioè della Monica Lewinsky stessa, che diceva è successo questo, mentre in questo caso finora almeno non abbiamo una vittima che denuncia questa cosa. E poi due particolari non irrilevanti, che la Lewinsky era una dipendente del governo statunitense, quindi una posizione di subordinazione nei confronti del Presidente, e il tutto era avvenuto in un ufficio del governo statunitense, e che ufficio? Cioè lo studio Oval della Casa Bianca. Quindi certamente le due vicende sono molto diverse. Senta, detto questo, da più parti si sostiene che Berlusconi sarebbe in difficoltà, non dico né grande né piccola, in difficoltà, addirittura starebbe perdendo qualche consenso, qualcuno addirittura si azzarda a dire, da parte dell'elettorato femminile. È così secondo lei? Beh, quel qualcuno siamo noi. No, beh, non solo voi, non solo voi. Qualcuno. No, non solo noi, ma questo si sa, questo credo che sia noto a tutti quelli che leggono i sondaggi giorno per giorno, ma a parte i sondaggi, e mi sembra inevitabile ed evidente che questa vicenda possa creare uno stato d'animo non favorevole a Berlusconi, soprattutto tra quell'elettorato, e ce n'è tanto, che in Berlusconi trova anche, come posso dire, insomma, un signore responsabile, in doppio petto, padre di famiglia, che d'altra parte ha più volte nella sua carriera politica anche illustrato e mostrato queste sue virtù, le foto a Macherio con la moglie, con i figli, il rapporto con i figli, e tante volte ha giurato sulla testa dei figli. Sì. Cioè, lui si è sempre presentato come il buon padre di famiglia. Sì, il dépliant diffuso agli elettori, una storia italiana, eccetera. Esatto, sì, quindi questi sono elementi costitutivi del personaggio Berlusconi, non irrilevanti. Quindi se per caso una parte dell'opinione pubblica si convincesse che questa storia contraddice quell'immagine, secondo me un rischio elettorale, un rischio di simpatia c'è. E c'è solo questo, secondo lei, che giustifica il fatto che l'opposizione, e sto parlando soprattutto dell'opposizione del Partito Democratico, dopo un momento di esitazione di fronte a questa storia, adesso la cavalchi, o almeno sembra cavalcarla? Adesso non so quale esito avrà l'interpellanza parlamentare o la mozione parlamentare che forse nelle prossime ore il Partito Democratico presenterà per chiedere a Berlusconi di spiegare queste cose in Parlamento. Ma è opportuno che l'opposizione cavalchi, naturalmente dal punto di vista elettorale magari sì, che la faccia diventare una questione istituzionale? Ma guardi, innanzitutto io oggi proprio ho letto che Franceschini ha dichiarato che questa vicenda non può entrare in un atto parlamentare. Secondo me ha ragione, io avevo scritto proprio ieri un editoriale per dire questo. Proprio perché non, non mi pare che possa trasformarsi in un Enigate proprio sullo stile del sexgate americano. In secondo luogo bisogna anche stabilire se cavalcare questa vicenda necessariamente comporta un vantaggio elettorale, perché il problema dell'opposizione, oltre quello di far perdere voti a Berlusconi, è quello di conquistarne essa stessa per un giorno sostituirvisi, e un uso spregiudicato in politica di una vicenda come questa potrebbe invece anche danneggiare chi lo fa. Io penso che Berlusconi abbia un conto aperto con l'opinione pubblica, abbia un problema evidente col suo elettorato e con l'opinione pubblica, è un problema suo e deve convincere lui, se ne è capace, l'opinione pubblica di non aver fatto niente di sbagliato. Finora le spiegazioni sono state convincenti a livello di piccola ricostruzione di date? Se vogliamo parlare di congruenza delle ricostruzioni, assolutamente no. D'altra parte, dalla prima ricostruzione a oggi sono state già state ammesse numerose cose che erano state escluse prima. Il giornale oggi si chiede: ma la ciccia dov'è alla fine? La notizia, a parte le frequentazioni con famiglie e con persone, che si sa, le persone possono dimenticare dei particolari, ma la ciccia dov'è in questa vicenda? Infatti, per me l'unica ciccia di questa vicenda che può riguardare l'opinione pubblica è il grado di autonomia e di libertà di cui gode il Presidente del Consiglio. Cioè la capacità, la possibilità di essere ricattato per tutte queste sue cosiddette frequentazioni. Questo è il punto più delicato. Se io nella mia vita privata non mi comporto in maniera più che specchiata e autocontrollata, posso mettermi in condizioni per cui un giorno qualcuno mi possa dire: guarda, io so questo di quello che hai fatto, no? Quindi sì, in cambio mi devi dare quest'altro. Ora, non sto dicendo che questo è avvenuto, perché non c'è nessuna prova che sia mai avvenuto, ma se in questa vicenda, nell'indagine giornalistica che è in corso, nelle vicende di cui veniamo a sapere, dovesse emergere questo rischio, questa possibilità, che per esempio nella nomina di un parlamentare o di un ministro o di un funzionario pubblico ci fosse un ricatto nei confronti di Berlusconi, un ricatto, una pressione dovuta a fatti che riguardano la sua vita privata, questo sarebbe molto molto negativo per il Presidente del Consiglio e molto pericoloso per la sua credibilità. Bene, la ringrazio, buonasera. Grazie a lei. 18:54:52 secondi. Giacomo dalla provincia di Milano, buonasera. Qualcuno ci chiede perché continuiamo a parlare di questa storia. Magari ci sono altri argomenti più interessanti, come la Corea del Nord, domani ne parlerà Giuliano Ferrara, o altre cose che riguardano la crisi economica, ma noi siamo un programma sui generis, se volete, ci sono diversi contenitori a Radio 24 in cui si parla di tutto questo. Noi cerchiamo un po' di capire quali sono gli argomenti di cui si parla anche nei bar, nelle piazze, non solo nei grandi consessi dei filosofi e dei giornalisti. Giacomo, dalla provincia di Milano, buonasera. Buonasera a lei. Dica. Le do un mio punto di vista assolutamente personale. Lei è un milanese di recente acquisizione, a vergine di milanesi come lei. Io invece sono nato e cresciuto a Milano, sono nato nel 58 a Porta Genova, un passo dalla Darsena dei Navigli. Io ho assistito alla caduta rovinosa di Milano, che è iniziata negli anni 70, che sono stati anni in cui c'è stata una manipolazione sistematica da parte dei grandi ideologhi della sinistra, della realtà, della cultura, a scopi di bottega. Di che mi vuole parlare però, Giacomo, perché non possiamo risalire all'amministrazione di Milano negli anni 70. Subito dopo, Berlusconi è la Vandea. Berlusconi ha la testa infognata negli anni 80. È un uomo che assomma ignoranza e cupidigia ai massimi livelli, è un uomo che ha imposto la sua visione provinciale delle cose. Sì, però qui siamo all'invettiva, che per carità ci può anche stare, no, ma ci può stare come ci può stare tutto in questa trasmissione, però non è una discussione, non possiamo intavolare una discussione quando uno comincia a parlare di ignoranza, ma io lo direi anche se lei avesse rivolto queste parole a un'altra persona. Lei dice l'ignoranza e la cupidigia, va bene, insomma sono categorie su cui è molto difficile discutere. Però guardi, è una storia italiana, storia italiana, però ripeto, le categorie dell'ignoranza e della cupidigia, lei ne ha aggiunto un'altra ancora, mi pare che io cosa vuole che le risponda. Lei può fare la sua invettiva, continui pure, non c'è problema. Sarò breve, sì, secondo me si tratta del fatto che noi siamo ancora, ripeto, infognati negli anni 80, sì, a causa del fatto che viviamo la controriforma rispetto agli eccessi che sono venuti prima. Beh, tutto questo è straordinario, guardi, questa invettiva la proseguiamo dopo il GR delle 19, perché questa sera devo essere puntualissimo. Andiamo a sentire i titoli del TG3. Tre operai morti in una raffineria a Cagliari, sarebbero stati uccisi da esalazioni di azoto, stavano pulendo un serbatoio. Una famiglia su 5 è in affanno, 6 su 100 restano indietro con i pagamenti, aumentano i disoccupati di mezza età, l'Italia vista dall'Istat. Dopo la condanna dell'ONU oggi, 2 nuovi test atomici della Corea del Nord, azzerato l'orologio della pace nel museo di Hiroshima. Berlusconi, so chi trama contro di me, c'è un complotto per screditarmi, il PDL e la sinistra pensa al gossip, noi a risolvere i problemi. Franceschini, il premier rinuncia, lodo Alfano, Di Pietro lancia la sfiducia, mozione del PD per tagliare il numero dei parlamentari. Inquietante episodio in procura all'Aquila, la cassaforte è trovata aperta, il procuratore Rossini non è stato sottratto alcun fascicolo sul sisma. 3 giorni di festa in Camargue per i gitani di tutta Europa, si radunano da centinaia di anni per celebrare Santa Sara, la Madonna Nera. Le imitazioni permesse dalle leggi europee, vini senza uva e formaggi senza latte, anche sulla tavola degli italiani, la denuncia della Coldiretti. Va bene, andiamo a sentire anche Sky. Tre operai uccisi da gas tossici in una raffineria della Saras a Cagliari. Fiat Opel per Marchion, la trattativa è una lotteria, Intesa San Paolo appoggia l'indotto. L'Istat fotografa un'Italia in difficoltà, in crisi, una famiglia su 5. La finanziaria si trasforma, anticipati i termini, si chiamerà legge di stabilità. Caso Noemi, Berlusconi, so chi trama contro di me, la CEI, ognuno ha la propria coscienza. Il caldo alle ore contate, in arrivo una tregua domani, primi temporali al nord. Camorra arrestato a Napoli, Antonio Bastone, era il reggente degli scissionisti. Donna e ispanica, Obama nomina Sonia Sotomayor alla Corte Suprema. Vigilia da campioni, Barcellona e Manchester a poche ore da un sogno targato Roma. Millennium all'assalto del grande schermo, arriva al cinema il successo editoriale dell'anno. Va bene. Alle 19.22 col numero di telefono 800 24 00 24 continuiamo a occuparci della saga Berlusconi-Noemi. C'è qualche ascoltatore arrabbiatissimo che sentiremo fra poco che dice basta di questa vicenda. Secondo Fabrizio Rondolino, il secondo altri, è una buccia di banana, insomma, su cui potrebbe addirittura cadere Berlusconi, perché l'Italia potrebbe riscoprirsi da questo punto di vista un paese moralista. Se questa immagine qua, che ha funzionato e che gli ha portato un sacco di voto femminile, si rovescia, non dico nel suo posto, ma nel lato oscuro, no? Per cui non è un vecchietto di quasi 73 anni che insidia delle minorenne o che comunque le frequenta in modo poco limpido, se si consolida quest'altra immagine, allora sì che lui può perdere proprio tanti, perché l'Italia poi è capace anche di scoprirsi moralista quando gli conviene. Esiste un voto femminile che potrebbe almeno in parte ritenersi, come dire, un po' come risvegliarsi da un brutto sogno, no? Siccome l'Italia è quella di piazzare Loreto e delle monetine a Craxi, non mi stupirebbe se ci fosse un terzo momento, ma di carattere assolutamente viscerale, moralistico, tra virgolette, come era moralista la folla delle monetine, no? Del tutto extrapolitica. Questo Rondolino, qualche volta uno si interroga, ma insomma questi corrispondenti esteri, questi giornali stranieri che ogni tanto citiamo, no? Come per dire, vediamo cosa ne pensano di noi, e spesso diamo grande importanza a questi giornali. Ebbene, sentite qual è il giudizio su Berlusconi, così moderato, diciamo, di un corrispondente di un giornale spagnolo, Il País, che è un giornale molto legato al gruppo Repubblica, per carità, un giornale, diciamo, vicino anche alle posizioni del Partito Socialista Spagnolo, da sempre abbastanza anti-berlusconiano quando si occupa di Italia. Il giornalista si chiama Miguel Mora. I lettori spagnoli sono stupefatti, no? Non si capisce bene come Berlusconi continua a essere al fronte di un governo con tutte queste vicende mischiate. Il clima è un clima di bassissimo impero, ma è un clima che ricorda anche alle dittature latinoamericane, in certo senso, per il senso di immunità che Berlusconi sta mostrando. E anche allo stesso tempo è una specie di vanguardia del populismo europeo del secolo XX, di questo secolo, una specie di si può chiamare forse il populismo velinismo o il velinismo offshore. Populismo, velinismo offshore, questo è il corrispondente in Italia di uno dei principali quotidiani europei, più spesso citato, spesso citatissimo, Miguel Mora. 19:25, 800 24 00 24, altri argomenti del giorno, oltre a tutte le notizie economiche che avete sentito e oltre alla tragedia di Cagliari, fra poco, della Sardegna, anzi, su cui fra poco vi offriremo una parte di un documentario trasmesso, anzi, proiettato qua e là in Sardegna, su cui pende però una minaccia da parte dei legali della Saras. Ma lasciamo perdere per il momento questa questione e affrontiamo invece la vicenda Mentana, perché oggi un tribunale ha riammesso Mentana, ha riassunto Mentana a Mediaset, diciamo così. Mentana torni a Matrix, il giudice del lavoro ha dichiarato illegittimo l'allontanamento e ha ordinato il reintegro alla conduzione. Mediaset, faremo appello. Succede anche questo, cioè che la linea di un'azienda venga poi messa in discussione dai giudici per quello che riguarda il reintegro nel posto di lavoro, che naturalmente non avverrà, perché a Mentana che cos'è che premeva? Che fosse riconosciuto il fatto che di licenziamento si trattò. In ogni caso, qualche giorno fa Federico Confalonieri in un convegno è tornato su questa vicenda, sentitelo. Voi avevate un cavallo di razza che è Enrico Mentana. Che ha dato le dimissioni. Ma le chiedo, a parte che lui recentemente ha detto qualcosa che presumo le dispiace molto, che Mediaset è un comitato elettorale del Premier, e che poi lui stesso le chiese di uscire da Mediaset per uscire comitato elettorale. Mi chiese di uscire in aprile e se n'è andato a febbraio, però insomma. Per 9 mesi è stato nel comitato, ma c'era stato 18 anni prima, sì. Per 18 anni, quindi, ma poi queste sono cose che, come sempre, no? Anche i matrimoni finiscono male, qui cadiamo in un'altra roba, dove... Però insomma, ecco, il matrimonio con Mentana è andato così. I cimiteri sono pieni di indispensabili, dice poi Confalonieri. C'è un vecchio detto, non so di che regione, ma credo che sia regionale, i cimiteri sono pieni di indispensabili, quindi quanti grandi sono morti, quanti sono stati sostituiti, eccetera. Quindi l'abbiamo sostituito con un ragazzo della CNN, bravo, ha fatto gli stessi ascolti. A proposito della vicenda dunque di Sarroch e della Saras, i tre morti, un documentario di Massimiliano Mazzotto dal titolo Oil, trasmesso per esempio il 20 febbraio a Cagliari in uno spazio. I legali però chiedono il sequestro di questo, i legali della Saras chiedono il sequestro di questo documentario. È un documentario in cui si parla soprattutto delle condizioni di vita dei cittadini di Sarroch e dell'inquinamento che sarebbe letale per questi cittadini. Però c'è un passaggio in cui si parla di appalti a ditte esterne che comprometterebbero la sicurezza all'interno dell'impianto. Sentite. Con le ditte esterne sei sicuro che il lavoro viene fatto, risparmi minimo il 30% e il lavoro viene fatto nei tempi giusti. Ed ecco che perché succedono anche queste gare d'appalto a bassi costi e ci sono anche questi incidenti sul lavoro. Per questo motivo, perché si va al ribasso sempre. E quella ditta che si prende il lavoro a basso costo per stare nei tempi, turni massacranti, sicurezza, ciao, ecco dove è il problema. Naturalmente poi il documentario parla d'altro, questo però è un piccolo passaggio che riguarda la sicurezza di quegli impianti. Con tutto questo naturalmente non c'è nessuna sentenza che abbiamo emesso nei confronti della Sara, soprattutto in un giorno così drammatico come questo in cui tutte le cose devono essere chiarite. Riprendiamo con il nostro amico della provincia di Milano, Giacomo, eccoci qui. Buonasera, sono qua di nuovo. Dica allora. Ma niente, io dico semplicemente che Berlusconi ha rappresentato la contrapposizione, a mio avviso, indigeribile ad una sinistra e al suo apparato culturale, tutto quanto indigeribile allo stesso modo. Il risultato è una classe dirigente che in blocco ha una sola ossessione, quella di mantenere se stessa in sella con le proprie ballerine, le proprie veline da una parte, i propri sodali, i propri intellettuali organici, i propri cinematografari dall'altra parte. E forse bisognerebbe capire che la sovranità appartiene al popolo e che la politica e lo Perché, Stato... Perché scusi, il potere che glielo dà a queste persone che lei... che lei apostrofa in questo popolo, modo? Il popolo gli dà il potere perché è costretto a delegare il potere, costretto a delegare carta bianca per 5 anni. Le ricordo che invece Obama, cosa dovrebbe fare? Beh, c'è un paese esotico che sta a 20 km a nord di dove abito io, che è la Svizzera, dove il cittadino delega il potere ma mantiene la parte maggiore della sovranità ed è in grado in un qualunque momento di avvocare a sé decisioni che sono state mal prese dai politici, ribaltando le loro decisioni oppure... cioè, l'unico modello di democrazia secondo lei è la Svizzera? Obama ha parlato nel suo discorso inaugurale, ha citato Abraham Lincoln dicendo che voleva mettere in atto un governo del popolo, dal popolo. Vabbè, per il popolo. Giacomo, stiamo volando alto, andiamo al sodo. Qual è l'applicazione di queste sue teorie alle cose che stanno avvenendo in questi giorni? Perché altrimenti facciamo un trattato di filosofia politica. La faccio breve, bisogna voltare pagina. Mi sembra sia il caso. Purtroppo ci ha lasciato un'eredità totalmente indigeribile. La sinistra ha fatto karakiri, spero che a suon di veline faccia karakiri anche la destra e altre vaccate faccia karakiri anche la destra. Va e bene. Che finalmente riprendiamo le cose in mano noi cittadini. Va bene, grazie, Giacomo. Grazie. Questa è l'invettiva di Giacomo, il trattato di scienza della politica. Di questo ascoltatore della provincia di Milano, speriamo in interventi un po' più concreti, altrimenti andiamo tutti a casa. Fernando da Chieti, buonasera. Ah, buonasera Cruciani, io sono uno di quelli arrabbiati perché sto seguendo quasi tutte le sere la trasmissione e inevitabilmente si va sempre su questo punto. Comunque ha ragione lei, nel senso che effettivamente se ne parla su tutto, per bar, tutte queste cose qui, però io adesso non voglio rubarle altro tempo, te dico una cosa sola. A questo signore che è stato eletto democraticamente, eccetera, eccetera, gli hanno detto di tutto, quindi perfino pedofilo, fascista, eccetera, eccetera. Lui non lo farà, ma ammesso che questo qua si fa giudicare e risulta nullo praticamente, anche perché... Ma giudicare su che cosa, scusi, Fernando? Vogliono le sue dimissioni, automaticamente... Sì, ma si vogliono le dimissioni di Berlusconi, diciamo, dal 94, da quando è entrato in politica, ogni piede sospinto si vogliono le dimissioni di Berlusconi. Ma a parte questo, giudicare per che cosa? Per la vicenda Noemi? Cosa c'è da giudicare? Sì, sul fatto di Mills e di Noemi, visto e considerato Mills, che... Berlusconi, è un... Berlusconi come sa, ha una posizione stralciata per via del lodo Alfano. Dunque... Lo so, no niente, io se fossi lui, ma non lo farà, farei quello che ha detto Franceschini, cioè rinuncio a questo lodo per farsi giudicare nella fattispecie sul caso Mills e rispondere, visto e considerato che è un pedofilo, realmente su quello che ha fatto. Cioè lui non guardi lo fa, che cosa c'entra le accuse, che peraltro nessuno fa apertamente insomma ieri sera avevo un ascoltatore. Sì, ho capito, cosa c'entra col caso Mills, mi scusi, lei mette insieme le due cose tutti... No, ma quello più hanno sommato tutte queste cose qui, quindi di conseguenza sarebbe bene che se ne vada a casa, si faccia giudicare, faccia qualcosa. Sì, ma giudicare per il caso Noemi su che cosa? Non c'è una denuncia, non c'è niente, non è che c'è un'iniziativa della magistratura, mi scusi. Sì, non c'è niente, no, ma però ne parlano tutti, praticamente tutti quanti sanno qualcosa, addirittura anche sul... Cioè praticamente questi qui già hanno fatto degli incontri, delle cose a luci rosse, visto e considerate che loro dicono così, la stampa, il pubblico normale, che posso essere anch'io, bene, allora faccia così, si faccia giudicare, si mette in mezzo alla piazza, si faccia dire va qualcosa. Bene, Fernando, adesso Berlusconi sembra che dire, non si sa in che occasione darà la sua versione definitiva su questa storia. Ernesto da Treviso, buonasera. Buonasera. Dica. Buonasera. Io sono tra quelli, che penso che siano tanti in Italia, e sono assolutamente stupidi. E sentire, io seguo la vostra trasmissione quasi tutte le sere quando sono in macchina. Lei non ne può più di questa vicenda? No, ma non solo di questa, perché diciamo, trovo poche idee sparute in giro per i discorsi che vengono fatti e anche dai nostri politici. Insomma, se lo spot nazionale è quello di fare l'antiberlusconismo, se credono di fregare Berlusconi in questa maniera, secondo me si sbagliano. Io ho fatto 20 anni in politica, in anni non so sette, poi me ne sono andato perché la politica non faceva per me. Però e qua ci vorrebbero contenuti, idee, non gossip, non tediare la gente attaccando uno che comunque alla fine vedremo fra 15 giorni ci sarà però un Ernesto, mi scusi, lei dice non è che è stufo di queste discussioni, dice basta di criticare Berlusconi per queste cose, che è un po' diverso. Sì, esatto, cioè facciamo una serie politica anche di opposizione, cercando di usare i media sui problemi, sui problemi che comunque abbiamo, e attaccare politicamente una persona, non giornalisticamente, con degli scandali, scandalucci più o meno presunti. Su caso invece hanno fatto il lodo Alfano, benissimo, potrebbe rinunciare Berlusconi, ma chi glielo fa fare di rinunciare? C'è un procedimento giudiziario arrivato al primo grado, andrà presumibilmente avanti, io credo che Berlusconi non cada nell'intertempo, a meno che la giustizia non si dimostri come al solito particolarmente lunga. Poi se farà in tempo andrà a giudizio, altrimenti no, non c'è una sentenza definitiva che condanni Berlusconi. Sì, no, ma ho capito Ernesto, però ripeto, i giornali, una cosa è l'iniziativa politica su questa vicenda di Noemi che sembra che il Partito Democratico non voglia prendere, oggi ci dovrebbe essere una dichiarazione di Franceschini al riguardo. Una cosa è invece l'iniziativa o un'inchiesta giornalistica da parte di un quotidiano, che naturalmente ha tutto il diritto a farla questa inchiesta giornalistica. Angelo da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Io mi sono interrogato su questa cosa e sono arrivato a questo punto. A me piacerebbe sapere com'è andata per poter avere un'opinione. Tutti hanno un'opinione senza sapere effettivamente cosa è successo. Ora, io credo che i giornali debbano avere questo compito, quello di cercare di farci capire cosa è successo. Vespa, porta a porta, ha fatto una trasmissione per cercare di capire cosa è successo, solo che l'ha chiesto Berlusconi. Berlusconi si è inventato un po' di cose, noi non abbiamo capito cosa è successo. Continuiamo a parlare di una cosa di cui non sappiamo cosa è successo, come sono tante. Ma non è cose... che non sappiamo cosa è successo, Angelo. Ma lei lo sa cosa è successo? No, ma ci sono. Qual è il punto? La relazione tra Berlusconi e la famiglia Letizia, quando è iniziata, come si è sviluppata, eccetera, eccetera. Questa è una questione di interesse pubblico, il modo in cui è iniziata un'amicizia tra Berlusconi e la famiglia Letizia? No. Il fatto che semplicemente lui è andato a una festa di una ragazzina minorenne che lo chiamava Papi e basta, tutto qua. Vorremmo sapere come mai, basta, che dia una spiegazione, una semplice, accettabile, fine del cinema. Perché dobbiamo noi discutere per dei giorni, per delle settimane? Basta che ci dica perché c'è andato, basta. Guardi, che Berlusconi su questa cosa abbia detto delle bugie o si sia contraddetto, non c'è dubbio. Che le versioni tra di Berlusconi e del padre di Noemi Letizia siano discordanti in alcuni punti è anche vero, ma ripeto, io continuo a insistere su questo. Il punto qual è? Di sapere effettivamente le cose come sono andate e per quale motivo? Perché un premier non può dire bugie? Io non riesco a capire il suo snobismo intellettuale di queste settimane. Non è questione di snobismo, io mi interrogo, mi sto interrogando, non ho posizioni su questo, mi sto interrogando. Ma stare sul pero, dire se ne interessano tutti i giornali, tutte le televisioni, certo. La CNN, eccetera. No, la CNN. Ma se ne importa, come ce ne importa? Ce ne importa e come? Vogliamo semplicemente sapere cosa è successo, punto. Si può avere dei giornali che ci dicono, cercano di avvicinare una cosa o no? Possiamo avere delle previsioni televisive? Possiamo avere Fettuccio De Bortoli che va lì, ha paura a fare una domanda, porca miseria. Ma questa roba è inaccettabile. Ma è inaccettabile. Io voglio che qualcuno cerchi di capire cosa è successo. Se poi vorrei capire perché è così importante per lei capire che cosa è successo. Ma come fa a dire questa cosa, Cruciani, porca Eva? Vorrei capire perché per lei è così importante capire come è nata la relazione tra Berlusconi e la famiglia Letizia. Perché per lei è così importante? Mi risponda a questa domanda. Questa cosa qua non è importante, questa cosa e qua. Che cosa, allora? È importante che noi siamo da anni a interrogarci, siamo divisi in bande fra pro e contro, a interrogarci sulla sull'attitudine di Berlusconi a dire la verità o no. Su mille cose. Guardi, che Berlusconi si sia contraddetto, che Berlusconi si sia contraddetto, ormai questo qua è palese, ormai è palese. Sulla cosa delle veline, sulla cosa di Mills, sì, mille cose che sono successe. La cosa di Mills appartiene alla giustizia, ai tribunali, lasciamola perdere, qui non c'è questione di contraddizione. Ma come? Allora passiamo a un altro discorso, all'etica, lei parla di etica, allora non è questione che vogliamo sapere la verità, vogliamo sapere qualche altra cosa, lei sta parlando di etica. No, io sto parlando di questo. Noi abbiamo un premier, una persona che è stata votata all'inizio perché prometteva di abbassare le tasse. Vabbè. Poi dopo perché adesso non si sa bene perché. Comunque, Angelo, lei adesso sta facendo un'invettiva anti-berlusconiana che non c'entra niente con l'inizio del suo ragionamento, che è un'altra cosa. Lei sta dicendo: noi abbiamo diritto a sapere quelli che sono i rapporti tra Berlusconi e la famiglia Letizia. È così, lei è partito. Non importa nulla di questo. No, e allora che cosa le importa? Non ho capito che cosa le importa. Non può continuare a dire non ho capito cosa le importa a lei. Non ho capito cosa importa a lei. Mi può spiegare cosa importa a lei? Mi importa di capire se noi italiani abbiamo il diritto di capire se la persona che ci governa dice delle palle o no. Le ha dette? Le ha dette perché ci sono delle contraddizioni tra quello che ha detto. Vuole capire perché le ha dette? Vuole capire da chi lo vuole capire? Da Berlusconi? No, voglio sapere. Ci sarà un modo di capirlo su questo e sull'altra vicenda. Allora faccio un'altra domanda. Può darsi Berlusconi risponderà su questo. La domanda successiva è questa che le faccio. Berlusconi ha detto che risponderà. A questo punto deve rispondere perché naturalmente si è messo nei guai, tra virgolette, con le sue mani. Qual è l'interesse per lei sapere come sono andate le cose, cioè quali sono i rapporti tra Berlusconi e Noemi Letizia, il padre di Noemi Letizia? Qual è l'interesse? Lo posso sapere solo dopo, non prima. Non prima. È chiaro che c'è del torbido in questa vicenda. Eccoci, siamo qui. C'è del torbido. Allora, 19:47, siamo con Angelo da Milano, secondo il quale è chiaro che c'è qualcosa di torbido in questa vicenda, giusto? Ma se non ci fosse qualcosa di torbido, Berlusconi avrebbe detto: questa ragazza la sto aiutando perché sta studiando e io la aiuto, le do una borsa di studio. Bellissimo. No, cosa che ha detto peraltro, cosa che ha detto, che sta aiutando la ragazza. Bellissimo, ma per carità di Dio. Ma se non lo dice... Perché non lo dice? Io mi chiedo perché non lo dice. Guardi, Angelo, mi scusi un attimo. Ieri, l'altro giorno, il Foglio, lunedì, rispondendo alle domande per conto di Berlusconi, ma naturalmente non era Berlusconi, era Giuliano Ferrara che le scriveva, ha detto una cosa secondo me molto convincente. Non è che necessariamente si debba rispondere a un giornale dicendo come sono questi rapporti, come non sono questi rapporti, come sono nati, come non sono nati. Finché non è un fatto, come dire, di Stato, questi rapporti rimangono rapporti privati. Dunque Berlusconi, secondo Ferrara, si può essere liberato da queste domande dicendo qualche stupidaggine, naturalmente commettendo un errore clamoroso dicendo queste stupidaggini, perché poi queste stupidaggini sono state smentite. Cioè, non è che per forza dietro questa vicenda ci debba essere qualcosa. Io dico per forza, non lo so, magari c'è qualcosa di torbido, però evocare qualcosa di torbido significa fondamentalmente non porre l'unica domanda vera, che è quella che tutti dovrebbero porre e che nessuno ha il coraggio di porre fino in fondo. Cioè, lei, signor Berlusconi, ha avuto rapporti sessuali con questa ragazza? Ha avuto un certo tipo di rapporti, come dire, torbidi con questa persona? Questa è l'unica domanda. La risposta naturalmente sarebbe no e tutto sarebbe chiuso. Invece questa domanda nessuno ha il coraggio di porla, si gira intorno o no? Ma a me non interessa neanche questa. Non le interessa. Cosa le interessa? Non ho capito cosa le interessa. Sapere da Berlusconi come sono andati i fatti. No, sapere perché non risponde. Lei non vuole sapere come sono andati i fatti, ma sapere perché non risponde subito alle domande di un giornale. I fatti di per sé mi interessano abbastanza poco. Però il fatto che non risponda subito alle domande di Repubblica, come se a 10 domande fatte da Repubblica bisogna rispondere Chi ha parlato di Repubblica? E allora quali domande? Le domande le ha poste Repubblica, quali sono le domande? Quelle che gli ha posto Vespa quella sera. A quelle domande ha risposto in un certo modo a me non sta bene. E queste risposte risponde in quella maniera lì. A lei non sta bene, non lo voterà. Angelo, cosa vuole che dica? Ma cosa vuol dire? Mi fa specie anche che un talk show giornalistico come quello lì non sia in grado di avere un contraddittorio da cui emergano delle cose. Angelo, ma non era un processo quello, non era un processo a Berlusconi con i fatti, con D'Avanzo che lo interrogava su questo e su quest'altro. Ma se Vespa fa dei processi interi con le ricostruzioni, con le casette che si smontano, e invece lì sembra una mammoletta. Ma per favore, ma io cittadino da chi sono, ma cosa dovrebbe, allora, invece, per non essere una mammoletta, cosa doveva fare? Un contraddittorio un po' più serio. Contraddittorio un po' più serio sulla vicenda che era appena agli inizi, peraltro, quella di Noemi. Ma si spegneva subito, bastava che questo dicesse una cosa sensata. È lui che ha dato l'impressione che sia qualcosa di torbido. Cristo, ma non è difficile da capire sta no, roba. No, ma infatti non è difficile da capire. Io no, faccio, guardi, io sento il suo programma da quando c'è, sì. Prima sentivo Sant'Almassi, sì. Non riesco più a sentirlo perché lei fa questa parte qui di snobismo. Ma cosa vuole che fa? Io non faccio mica il Terminator, io di parte di snobismo. Ma no, io, ma che allora? Ma come fa a non dare ragione ai cittadini che vorrebbero sapere cosa? Ma quali cittadini? Ma chi l'ha detto che i cittadini vogliono sapere questo? Questo lo dice lei, che i cittadini vogliono sapere certe cose. No, scusi. I cittadini non vorrebbero sapere, ma perché Berlusconi non dice niente. Ma non è questo il punto, Angelo. Non è questo il punto. No, veramente il benaltrismo che è intollerabile. Io non riesco a capirlo. Non riesco a capirlo, però resti con me ancora. 19 se vuole, 1951 800 24 00 24. Franco La Ratta è un deputato del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera a lei. Senta La Ratta, oggi la sua posizione, che era quella di portare in Parlamento con un'interpellanza una parte di quelle domande che Repubblica ha posto al Premier, di cui si parla ormai da giorni, sì. È venuto un po' meno, però, perché il leader del suo partito, Franceschini, ha detto: beh, insomma, queste cose però non possono diventare atti parlamentari, o sbaglio? Sì, so che Franceschini giustamente ritiene che queste cose non debbano diventare atti parlamentari. Noi credo che però nell'esercizio delle funzioni di parlamentari abbiamo diritto di avere alcune risposte dal primo ministro, nel senso che ci sono alcune cose che andrebbero chiarite, ma io credo però, io ho impostato un po' diversamente l'interpellanza che noi abbiamo, stiamo raccogliendo le firme dei colleghi, cioè per dire. Ci sono cose che è bene chiarire in difesa del ruolo, delle funzioni, del prestigio, delle cariche istituzionali, tra cui la presidenza del Consiglio. Cosa c'è da chiarire secondo lei? Ma bisogna far chiarezza su alcune cose che vengono dette, cioè ad esempio i rapporti che ci sono stati con una ragazzina minorenne, alcune frasi che ha detto la moglie, se è vero che va con minorenne e che non sta bene, che va aiutato, se è vero che ci sono stati momenti istituzionali di altissimo rilievo in cui una ragazzina minorenne ha partecipato. Sono cose che all'apparenza sembrerebbero private, ma coinvolgono le istituzioni dello Stato, funzioni pubbliche, coinvolgono il primo ministro. Io soprattutto la vorrei impostare in questo senso. La sì, però domanda. La Ratta, mi scusi, quando uno dice il Premier dovrebbe fare chiarezza su quelli che sono i suoi rapporti con una minorenne, o con varie minorenni, diciamo, o sulla sua, su alcuni aspetti della sua vita privata, beh, insomma, credo che sia, per carità, poi ci sono delle contraddizioni, delle cose dette da Berlusconi che probabilmente, anzi sicuramente, sono state contraddette dallo stesso Berlusconi e da altre versioni date dal padre di Noemi Letizia, questo lo sappiamo tutti. Piccoli particolari sul modo in cui, diciamo, Berlusconi ha conosciuto la famiglia, però quando lei dice deve essere fatta chiarezza, insomma, alla fine cosa si vuole chiedere a Berlusconi? Se ha avuto rapporti con questa persona? Diciamo la verità, cioè, è questo o no? Ma io non la imposterei così, cioè, a me questo oggettivamente non mi sembra necessario per noi sapere, insomma, ecco, questo è un problema davvero suo. Cioè, la cosa curiosa è tutto questo, io le chiedo scusa, è che secondo me per una volta il presidente Berlusconi, che pure è esperto ed è nella comunicazione, è unico al mondo come bravura, si è sbagliato e si è confuso da sé, insomma, raccontando cose che poi hanno intorbidito la vicenda. Forse poteva essere più chiaro dall'inizio, forse poteva essere più trasparente nel dire alcune cose, forse è stato colto in imbarazzo in un argomento che lui non vuole toccare. Pur tuttavia è chiaro che se attorno al presidente girano 50 ragazzine che partecipano alle feste, è un fatto privato, è vero, ma è curioso, è strano. Se una ragazzina minorenne partecipa ad un incontro istituzionale con le altre firme e col mondo delle imprese, è strano. Se ci sono che ruotano attorno ai rapporti con la famiglia, che lui ha confuso e si è contraddetto ed ha alimentato il pettegolezzo, è strano. Un uomo bravo come lui nella comunicazione, sì, per ma una volta sarà anche strano, La Ratta, io non lo metto in dubbio che sia strano, anche se poi uno non si dovrebbe stupire di questo modo di fare di Berlusconi, no, anche di alcuni aspetti della sua vita privata, no, carità, che sono un motivo dell'odio nei suoi confronti, ma anche un motivo di, come dire, del suo consenso. Però io non riesco ancora a capire fino in fondo qual è l'implicazione pubblica, perché molti paragonano questa vicenda alla vicenda Levinsky, che non c'entra assolutamente nulla, perché lì c'era un'accusa vera e propria, c'era una persona che ha fatto una denuncia, c'era una menzogna davanti a una bugia detta davanti a un giudice. C'è un innesto, mi perdoni, che ha causato tutta questa vicenda e l'ha intorbidita, è che quando la moglie dice che lui va con le minorenne, che è malato, e lo dice nel contesto in cui si sa che va ad una festa con una ragazza, una ragazzina che fa 18 anni, che più volte l'aveva già vista, è qui che nasce il drammatico equivoco. Che voleva dire la signora e come mai lui davanti a questa cosa reagisce in maniera furibonda invece di chiarire subito? Io non so cosa ci sia da chiarire, ce lo dovrebbe dire lui, però è nato lì l'equivoco terribile, cioè davanti ad una cosa che è infamante, è terribile, che viene da dentro casa sua, quando dice mio marito va con le minorenni. Ho capito, ma tutto questo perché deve essere spiegato in Parlamento? Cioè la lettera di Veronica Berlusconi deve finire in Parlamento, mi perdoni? Io ho detto che a tutela del prestigio dell'istituzione, se lui vuole fare chiarezza, bene, se non ci dica non ho nulla da dire, non lo possiamo e non lo vogliamo costringere. Cioè in questo momento un'interpellanza che raccoglie le firme significa portare, diciamo, non dico costringere, ma insomma chiedere a Berlusconi di venire in Parlamento a spiegare. Posso dire che lui potrebbe dire che è un fatto che non ritiene di rilievo istituzionale e non risponde. Beh, comunque lui ha detto che spiegherà, non so in che contesto. Bene, non lo sappiamo, l'ha detto, se lo spiega secondo me è meglio, perché gli equivoci ci sono. Per l'istituzione, dice lei. La ringrazio. Abbiamo il TG5. Tragico incidente nella raffineria Saras in Sardegna. 3 operai sono morti per le esalazioni tossiche mentre lavoravano alla pulizia di una cisterna. I vertici Fiat a Berlino per illustrare alla cancelliera Merkel il piano di fusione con Opel. Colloqui costruttivi, dice Marchionne, ma l'esito è una lotteria. Domani la decisione tedesca. Istat, una famiglia su 5 ha difficoltà economiche. Il 6,3% non arriva a fine mese. Il settore scienza batte la crisi. Tante offerte di lavoro per ingegneri, chimici e fisici. Migliaia di falsi invalidi scoperti in tutta Italia dall'INPS, revocato il 13% delle pensioni, in testa Sardegna, Calabria e Sicilia. Dopo anni di calo, improvvisa impennata del numero dei fumatori, soprattutto donne e giovani, sempre più bassa l'età della prima sigaretta. Per Manchester United Barcellona, finale della Champions domani a Roma, scatta il piano sicurezza, stop alla vendita di alcol, in arrivo 50.000 tifosi, migliaia senza biglietto. Qui andiamo al TG1, i titoli. Morti bianche nella raffineria Saras di Cagliari, 3 giovani operai uccisi dai gas in una cisterna, il cordoglio di Napolitano. Opel Marchionne vede la Merkel, un incontro costruttivo dice, ma è una lotteria, domani la decisione del governo tedesco. Franceschini, il premier rinuncia a Lodo Alfano, mozione di sfiducia dall'Italia dei Valori, Bonaiuti, polveroni della sinistra senza idee. Tremonti, ottimo sistema pensionistico italiano, deficit sotto il 3%, Istat, una famiglia su 5 in difficoltà. La figlia di Mike Tyson in fin di vita, strozzata da una fune mentre era in casa, la bimba ha 4 anni. Vigilia di Champions League, previsti oltre 70.000 tifosi inglesi e spagnoli, 5.000 senza biglietto, aggirati divieti anti-alcol. Eccoci qui e siamo di nuovo con Angelo da Milano, mentre l'onorevole La Ratta, prima del Partito Democratico, ci spiegava perché secondo lui la questione deve finire in Parlamento, anche se poi il suo segretario non è molto d'accordo, o comunque in Parlamento deve essere spiegata per la tutela e l'onore delle istituzioni. Angelo invece non si spiega perché io ho questo snobismo nei confronti di questa vicenda. Angelo, la parola snobismo però è sbagliata e glielo spiego subito, perché altrimenti non me ne occuperei da 3-4 giorni cercando di sviscerare tutte le cose, anche invitando persone che non la pensano esattamente come me. È successo col vice direttore di Repubblica Giannini, è successo con altre persone ancora. Come lei sa, qui non è che abbiamo il pensiero unico. Per cui insomma non si tratta proprio di snobismo. Io ancora devo riuscire a capire, e mi sforzo di capirlo, qual è, come dire, a parte la questione delle menzogne, a parte la questione delle contraddizioni di Berlusconi, qual è il grande scandalo politico, la grande questione di Stato che c'è dietro questa cosa. Ancora francamente non l'afferro, poi magari sapremo più avanti delle cose fondamentali, cioè le frequentazioni private, il modo in cui Berlusconi spende i suoi soldi, il modo in cui Berlusconi a spende il suo tempo e il modo in cui ha rapporti con le donne, che tanto indigna Gad Lerner, per esempio, io ancora non riesco a capire perché debba diventare o perché possa diventare una questione di Stato. Naturalmente questo può avere influenza dal punto di vista elettorale, può portare qualcuno a odiare ancora di più Berlusconi o a farlo amare ancora di più. Però la grande questione di Stato, francamente, non ce la vedo. Prego. Guardi, sono una serie di cose, no? È come dire, c'è stato, cos'è l'anno scorso, le intercettazioni sulla strada di Sacca, no? Sì. C'è stato la storia che ci fossero delle intercettazioni sulla Carfagna. Sì. C'è stata la vicenda delle veline. Io frequento il mondo della comunicazione a Milano, ogni giorno sento dei pettegolezzi che vengono da Roma e anche a Roma. Sì. E dei pettegolezzi. Vero, vero, se ne sentono di tutti i colori. Mi divertono e un po' mi preoccupano. Mm. Ma non è poi così separata l'una cosa dall'altra, perché se la nomina di un ministro, come qualcuno ha detto, passa da una scopa, la cosa sì, un però, po' però Angelo, qui siamo a un'altra questione, a parte che quelle intercettazioni non sono mai uscite e dunque non c'è nulla. Chiedo, ma ci sono o sì. Non ci sono? Allora, la questione è quella che diceva prima Polito, allora. La questione è la ricattabilità o meno da questo punto di vista del Presidente del Consiglio che ha delle pulsioni sessuali molto forti. Questo è il punto. Ma ciascuno di noi ha le pulsioni sessuali, cosa vuol dire? Però se uno si mette in quel ruolo lì, potrebbe anche sapere, capire che... ma poi a me non importa nulla se fa la festa con 30 ragazzine. E allora cosa importa? Dico, che la cosa non abbia riflessi pubblici? Cioè che la cosa ma, non... ma scusi, e allora io insegno all'università. C'ho delle alunne che hanno 24 anni. Sì. Io non mi faccio vedere nei corridoi a parlare con loro perché mi sembra di compromettere me stesso e loro. Come l'ascoltatore di ieri. Un ascoltatore di ieri da Pavia ci ha chiamato, professore universitario. Il quale... sì, ho capito, l'atteggiamento di Berlusconi è un altro. Da Presidente del Consiglio chiama... Potenziare un po' il mio ruolo... cercando di essere serio, dare un'impressione di serietà. Questo Angelo, ecco, francamente questo mi sembra un ragionamento secondo me un ragionamento cosa... serio. Tra l'altro lei ha rimproverato prima Ferruccio De Bortoli per le domande non fatte da Vespa. Questa è una domanda invece che De Bortoli ha fatto a Berlusconi e in quel momento, in quel contesto mi sembrava l'unica domanda possibile. Io non voglio difendere Ferruccio De Bortoli, non ne ha bisogno, però in quel momento mi sembrava l'unica domanda seria da fare dopo l'apparizione di quelle foto con Berlusconi alla festa a Casoria. Cioè un Presidente del Consiglio a un certo tipo di feste può o non può andare? Dovrebbe o non dovrebbe andare? Questa era la domanda che ha fatto De Bortoli e non mi sembrava del tutto campatinario, o sbaglio? Ma può andare benissimo se lo scopo è positivo, ma che ci vada. Se lui aiuta delle persone che ritiene stimabili per delle cose, fa benissimo. Beh no, ma qui beh no, questo non lo so, però Angelo, questa è una sua supposizione, una sua idea, eccetera, una sua speculazione. A lei sembra che sia così. Ma io fino adesso francamente qualcosa di torbido in questa vicenda, di torbido sto parlando, cioè di torbido, di sotterraneo, di nascosto, un rapporto torbido che riguardi Berlusconi e questa ragazza, io fino adesso non ce lo vedo, non lo so, perché sono sempre orientato a basarmi sui fatti e sulle cose, non sulle illazioni. Mi piacerebbe capire un po' di più. E questa è la faccenda. A me viene un'inquietudine. No, ma non è necessario, Angelo, mi scusi, non è necessario, a parte che di queste cose sono pieni i giornali, perché sull'Unità da settimane ci sono fonti anonime, sempre anonime, che parlano dei famosi festini a casa Berlusconi, dunque qualcosa è abbastanza ormai abbastanza nota, cioè non è una cosa così campata in aria. Berlusconi ogni tanto sembra, poi naturalmente siamo sempre nel campo delle ipotesi, sembra che faccia dei festini a casa sua, in Sardegna, eccetera, con un numero imprecisato di donne. È un problema questo? Guardi, però io non sottovaluterei questa cosa, perché dicevo qualcuno prima che gli italiani sono portati a celebrare una persona, ma poi fanno anche la svelta a segargli la sedia, perché a un certo momento dico, ah, però la casta, perché ha avuto successo il libro di Stella e di Rizzo? Mm. Perché il mettere a berlina questi politici prepotenti, arroganti, noi poveri cristi che paghiamo le tasse, che facciamo il nostro dovere, che diciamo la verità e veniamo tartassati e queste fanno quello che vogliono. Oh no, basta. Beh, allora, insomma, c'è dentro qualcosa di questo? Sì, ho capito, ma il Berlusconi libertino, secondo lei, è qualcosa di morale? Non mi spieghi questa cosa qua? Oppure non è consono al suo ruolo? Cioè, il fatto che Berlusconi si possa comportare in maniera un po' libertina dal punto di vista sessuale, delle frequentazioni, è un qualcosa che stride con la sua carica? Sì, questo lo fa in occasioni molto private, sta molto attento, eccetera, vabbè, passi. Ma se lo fa in questo modo, poi mentendo e poi telefonando a Sacca e poi mettendo le verine e poi togliendole e poi facendo illazioni, lasciando che crescano illazioni continue e costanti, mi sembra che è una cosa che potrebbe ritorcersi contro di lui. E allora non avremo modo di capire se è stato un grande statista o no. Va bene Angelo, la ringrazio molto, spero che sia contento di questa conversazione, sia soddisfatto di questa conversazione e che non mi accusi di snobismo su questa vicenda, cerco solo di capire naturalmente. La ringrazio, buona serata. Stefano da Modena, buonasera. Buonasera dottor Cruciani, io volevo cambiare un attimo argomento per tornare su Berlusconi dopo. Per quello del discorso della pubblicità della Renault, è interessante che credo si sia indignato, ma io penso che sono di una famiglia allargata in quel modo, con tutti quei figli e gli impegni di questa persona che non ha praticamente un secondo libero, direi che la pubblicità sia più a favore della famiglia normale con due bimbi e basta. Non vada a favore. C'è lo spot della Renault in cui c'è quel numero imprecisato di figli e quel padre che fa la spola tra una casa e l'altra. Impegnato, che non ha più una vita privata, direi che sia più una pubblicità che dovrebbe essere a favore della famiglia convenzionale, chiamiamola via. Beh, insomma, convenzionale adesso forse è esagerato, però forse uno spot a favore della famiglia, certamente. Perché un po' allargata in questo caso, però... Gli ha tolto praticamente tutta la vita privata. Niente, sì, io volevo piuttosto andare su una cosa più seria, che era l'incidente alla Saras. Sì. Io casualmente mi occupo anche di movimentazione dell'aria, di curazione dell'aria, eccetera. E oggi ho fatto un preventivo a un'azienda per un'aspirazione per la lavorazione appunto nelle vasche, in questi tipi di tunnel, in questi tipi di fognature, eccetera. E dove ci sono aziende formate, eccetera, le attenzioni ci sono e se ci sono certi accorgimenti non succedono questi incidenti. Io la penso in questo modo. Dunque? Quindi secondo me qui continuiamo a fare finta di essere super formati, di avere dei corsi, di avere delle agevolazioni per fare dei corsi, ma poi alla fine all'ultimo, all'utente, alla persona che deve fare il lavoro, forse di professionalità ne arriva poca. Ecco. Questa è la mia. La ringrazio. Paolo da Genova. Paolo, buonasera. Non c'è più. Max da Bologna, buonasera. Buonasera Cruciani. Senta, io volevo dirle sull'affermazione di Gad Lerner, vecchio bavoso, io non lo so se si possa vivere in un mondo in Italia con dei giornalisti famosi come Gad Lerner che usano queste. Posso capire l'opposizione opporsi, ma quando un giornalista arriva a usare questi termini, per me c'è odio, cattiveria, non so se un bravo giornalista come dovrebbe essere Gad Lerner si possa abbassare a questi termini che magari potrebbero usarli gente comune che odia Berlusconi e tutto, ma capisco un giornalista, un suo collega che possa versarlo per l'amor di Gesù, però quando si arriva a queste affermazioni secondo me ormai siamo arrivati a dei livelli che io non lo so dove ci si possa fermare, cioè capisco opporsi, capisco tutto, capisco tanta gente che sta intervenendo contro Berlusconi, io non voglio difenderlo perché non lo voto, perciò non mi interessa, però voglio dire dove stiamo andando, cioè questo odio, questa cattiveria, tutta sta gente che c'ha la bava alla bocca, io non lo so, boh. Per poi dare per certe delle cose si direbbe che, cioè, bisogna stare attenti anche a come parlare della gente, perché si direbbe, ma sono gravi affermazioni, siccome si direbbe o sì o no, perché se no si fanno dei pregiudizi su delle persone, si mettono in bocca delle persone che io non lo so, c'è gente che ha troppe certezze, a me piacerebbero più le prove più che si direbbe. Cosa mi dice lei? Beh, sono d'accordo con lei al 100% Max, anche se bisogna dire che nei guai un po', se di guai si può parlare, il Cavaliere si è messo un po' da solo con alcune affermazioni fatte da Vespa e poi successivamente. Gabriele da Firenze, buonasera. Buonasera signor Cruciani, senta, a proposito proprio del caso Noemi Berlusconi, e anche a beneficio credo dei suoi ascoltatori che magari non l'hanno letto, vorrei segnalare un articolo apparso oggi sul giornale a firma di Panza, di Gian Paolo Panza, In realtà è un estratto del suo libro, non è un articolo su questo caso, è un estratto dal nuovo libro di Giampaolo Panza che riguarda Repubblica, diciamo. Esatto, dove Panza sostiene senza giri di parole molto chiaramente che dietro a questa campagna mediatica scatenata dal gruppo Repubblica e dai suoi consociati, diciamo, ci sia un calo delle vendite di Repubblica, e questo calo delle vendite è testimoniato dalla Federazione Giornalisti Italiani, che ha riscontrato fra il 2007 e il dicembre 2008 un calo oltre del 15%. Sì, però Gabriele, mi scusi, Panza parla in generale del gruppo Repubblica e del tipo di campagne che fa Repubblica e di un calo di vendite. Ripeto, è un articolo che è un estratto dal libro di Panza, che non ha nulla a che vedere con la vicenda di Berlusconi e di Noemi Letizia, nulla. Lui sostiene che questa campagna sia anche stata scatenata. No, ma la campagna di cui lei parla non può essere l'oggetto di quell'estratto del libro di Panza, perché il libro è stato scritto molto prima. Precedentemente. Esatto. E questo infatti ero d'accordo in parte, però alla base di tutto quello che io poi volevo sostenere, sì, è che mi sembra un dibattito di bassissimo livello. Cioè, come ha fatto Angelo da Milano, che conclude chiedendo se è un grande statista, e lui valuta un grande statista solo in base alle persone che frequenta o che potrebbe avere frequentato, e non in base agli atti che invece compie o non ha compiuto per il bene della nazione. Cioè, secondo me questa è la discussione che dovrebbe interessare la maggior parte degli italiani, non tanto chi frequenta, quando frequenta e dove, ma cosa fa e cosa non fa per la nazione. Se poi lui si vede con le diciottenni o con le settantenni, a lui ce ne dovrebbe fregare il giusto, scusi il termine, sinceramente. Perché non commetta dei reati, a prescindere da questo. Sì, no, certo, certo. La ringrazio, Gabriele. Con Michele Brambilla, vice direttore del giornale. Buonasera, ciao Michele. Buonasera, ciao. Un ascoltatore mi chiede a bruciapelo: lei per tutta la serata ci ha domandato, ma insomma, dov'è la ciccia alla fine di questa vicenda Berlusconi-Noemi? Secondo questo ascoltatore la ciccia sta qui. Io non penso, scrive, che sia opportuno che un premier organizzi feste nella sua villa con ragazzine minorenni, ammesso che lo faccia. Poi, insomma, meno male che ha scritto ammesso che lo faccia. Il fatto che giochino con le Barbie o a palla nel giardino della sua villa è ininfluente. Secondo lei è normale? In quale altro paese sarebbe tollerato un simile comportamento? Lo so, Ghedini mi definirebbe un parruccone. Del resto, chi non vorrebbe riempire il proprio giardino di adolescenti che giocano a palla? Un altro ascoltatore prima si chiedeva per quale motivo al mondo, e si stupiva del fatto che io non considerassi un grande affair politico, pubblico, scandaloso, un grande affare di Stato questa vicenda di Berlusconi e di Noemi Letizia. Io continuo a chiedermi dov'è la ciccia, perché al di là di alcune contraddizioni di Berlusconi, che evidentemente ci sono in questa storia, e di alcune discrepanze tra quello che racconta Berlusconi e quello che racconta la famiglia Letizia, qui non c'è né un'accusa specifica, né un'iniziativa dei magistrati, né una denuncia come nel caso Levinsky. Qualcuno appunto ha sollevato questo caso, ma insomma le similitudini sono molto molto labili, no? Sì, è quello che ho cercato di scrivere oggi. Le domande di Repubblica, se uno le prende così alla lettera, sono domande che riguardano dei fatti assolutamente ininfluenti: dove ha conosciuto Tizio, quando ha conosciuto la ragazza, dove l'ha vista, eccetera. Repubblica non ha avuto il coraggio di esplicitare i sospetti che vuole insinuare nelle coscienze degli italiani. Cioè, vuol dire che il Presidente del Consiglio frequenta gente di malavita? Vuol dire che ha rapporti sessuali con minorenni? Beh, glielo chieda esplicitamente. Invece si è montata tutta una campagna dove queste cose non si mettono nero su bianco, perché non si può, perché il signor Letizia, fino a prova contraria, non è un camorrista, perché non ci sono denunce di molestie, perché non ci sono notizie di rapporti sessuali, e allora si fa intendere, si allude, insomma. E per questo che credo che sia molto debole questa campagna che è stata lanciata, debole e anche un po', come dire, scorretta, perché se si vuole accusare qualcuno di qualcosa lo si dica chiaramente. Apertamente. E ci sono degli ascoltatori che hanno però fatto presente una cosa: il fatto stesso che Berlusconi ammetta di feste organizzate in Sardegna e non solo in Sardegna, l'aver partecipato ad una festa di compleanno a Casoria in quel contesto e con quelle modalità, tutto ciò non è consono, comunque siano andate le cose, al ruolo del Presidente del Consiglio. Lei che dice? Io dico che questa è un'opinione legittima che ogni italiano si può fare e poi può trarne le conseguenze quando va a votare. Uno può dire che il Presidente del Consiglio non dovrebbe andare a queste feste, non dovrebbe organizzarle in casa sua e non lo voto più. Ma altra cosa è chiedere, come viene fatto in questi giorni, una messa in stato d'accusa in Parlamento oppure l'obbligo di una risposta pubblica in Parlamento su una festa, sulla partecipazione a un compleanno in un ristorante, no? Sono cose molto diverse. Un conto è avere opinioni così su un comportamento che si ritiene poco consono e altra cosa è invece chiedere delle dimissioni, come è stato fatto. Per chiedere dimissioni la partecipazione a una festa o l'organizzazione in casa propria di altre feste non mi pare sufficiente. E naturalmente c'è chi aggiunge da questo punto di vista, quando abbiamo ospitato il vice direttore di Repubblica Giannini l'altro giorno, tutto parte, dice Giannini, insomma alla fine poi il baluardo di questa campagna sono le frasi dette da Veronica Lario, sono cioè le affermazioni sulla frequentazione di minorenni e sulla persona malata, a parte che bisognerebbe contestualizzare quelle frasi che vengono spesso estrapolate, comunque insomma il loro significato fondamentalmente era quello. Su questo come si risponde? Cioè, come si può rispondere a questa, al fatto che poi alla fine tutto nasce da queste, dalle affermazioni della moglie? Si può rispondere che, come ha scritto oggi Antonio Polito su Riformista, si può capire una campagna giornalistica fatta da giornali di opposizione che cercano di stanare il Presidente del Consiglio anche su vicende private, ma qua è, insomma, fuori da ogni ipocrisia, qua si sta facendo passare una cosa molto più grave anche di quella che ha detto Veronica Lario. La signora ha detto malato, vabbè, ma che cosa sta passando nella testa degli italiani? Malato di che cosa? Qua si sta facendo intendere che ci sono delle depravazioni sessuali. Allora, se ci sono, le si dimostri o quantomeno si portino degli indizi e si metta sotto torchio il responsabile. Quello che mi sembra veramente poco trasparente, poco corretto, è questo modo di accusare senza accuse scritte, di far intendere, di alludere, questo modo di diciamo pure di infangare una persona senza che ci sia materia, senza che ci sia un indizio. Quello che è certo è che il Presidente del Consiglio ha partecipato a una festa con un signore che ha il gel sui capelli, che ha la camicia sbottonata con la catenazza d'oro sul petto, che può essere disdicevole, che può non essere simpatico. E altre feste ancora. Altre feste, sì, ma tutto nasce da lì e le altre feste sono citate come feste, sì, Villa Certosa. Sembra che Repubblica chiede come mai Berlusconi frequenta il signor Letizia. Ripeto, il signor Letizia può anche parire poco simpatico a chi lo ritiene poco simpatico, ma non è Totò Riina. Quando si potesse dire che ha frequentato un covo di camorristi, allora è più che lecito chiedergli spiegazioni, ma un minimo di garantismo anche per questo signor Letizia penso che sarebbe doveroso. D'altra parte su Letizia non è uscito fuori nulla, figuriamoci se in questi giorni non si sarebbe scandalato l'inferno su qualsiasi notizia che riguardava il passato di Letizia. Un'ultima cosa, e lo chiedo a Michele Brambilla, diciamo l'uomo che è anche cattolico, profondamente cattolico da questo punto di vista. Si parla molto di un elettorato che potrebbe essere cattolico, che magari vota Berlusconi, che potrebbe essere disturbato da queste cose. Alcuni cattolici del Partito Democratico ieri hanno tuonato, Enrico Letta penso anche a Rosi Bindi, che ne pensa lei? Penso che è possibile che ci siano dei cattolici che di fronte a questo can-can facciano prevalere il giudizio sulla persona rispetto a quello della politica, però, e lo dico da semplice cronista senza dare alcun giudizio di merito personale, però la realtà è che chi conosce il mondo cattolico, diciamo quello insomma più praticante, più militante eccetera, sa bene che il cattolico non vota la persona che ritiene moralmente integerrima, se ne frega della sua moralità. Il cattolico vota colui che poi governando favorisce le battaglie che sono care ai cattolici, cioè il cattolico preferisce, come ha detto bene oggi Vittorio Messoli in intervista alla stampa, preferisce, per intenderci, il divorziato che però fa una politica per la famiglia, oppure colui che ha abortito ma che vuole limitare l'aborto, oppure colui che ha fatto le scuole private ma che aiuta le scuole pubbliche ma che aiuta le scuole private, preferisce insomma chi segue questi temi caldi, questi temi cari al mondo cattolico, piuttosto che non chi ha una vita privata magari più pura, più, ecco, più proba, ma che però in Parlamento fa leggi diverse. Non importa se Zapatero, per intenderci, Zapatero è un uomo sposato con la stessa donna da una vita, due figli, non risulta che abbia mai fatto abortire sua moglie, eccetera, però ha fatto leggi che sono contrarie a quello che desiderano i cattolici, e un cattolico preferisce sicuramente votare un divorziato come Sarkozy, che però fa leggi meno zapateriane, che non una persona appunto dalla vita privata integerrima, ma che legifera diversamente. Per cui non credo che alla fine ci sarà uno spostamento rilevante di voti, anche perché, diciamoci la verità, i cattolici non sono poi così tanti. Un'ultimissima cosa riguarda però la menzogna, cioè il fatto che alcune dichiarazioni di Berlusconi poi siano state contraddette da altre versioni, eccetera, eccetera. Questo è un problema che riguarda un presidente del Consiglio, un uomo di Stato, oppure no? Io ho detto nei giorni passati che, destando molto scandalo, che la menzogna fa parte della vita politica in generale, insomma, per cui non bisogna stupirsi. Ma sì, dunque, intanto io anche qua faccio il cronista, registro il fatto che il Presidente del Consiglio continua a dire che lui non ha detto nessuna menzogna, che oggi ha precisato che non è stato lui ma è stato un suo collaboratore a parlare di autista di Craxi e così via. Ma se anche ci sono incongruenze, contraddizioni, incongruenze, cioè. il punto centrale è chiedersi se queste incongruenze sono tali da far mettere in stato d'accusa un Presidente del Consiglio oppure no, se sono questioni rilevanti, questioni insomma che hanno a che fare o con la vita pubblica oppure anche con quella privata, ma su cose gravi, oppure insomma se un Presidente del Consiglio mente sul fatto, su un fatto particolarmente importante per la vita del Paese o nell'esercizio delle sue funzioni è un conto. Se dice ho conosciuto il signor Brambillo, il signor Cruciani a Monza, invece l'ha conosciuto a Bergamo, non mi si può criticare, ma non mi sembra una materia così grave da impeachment come vorrebbe Di Pietro. Grazie a Michele Brambilla, buona serata. Eccoci qui alle 20:34, riprendiamo con gli ascoltatori dopo i titoli del TG2. Tre operai uccisi dalle esalazioni in una raffineria della Saras in Sardegna. Uno si era sentito male all'interno di una cisterna. I compagni hanno cercato di aiutarlo e sono morti anche loro. Berlusconi in un'intervista dice: Noemi e il caso Mills, storie montate ad arte per screditarmi e far cadere il governo. Franceschini, il premier, rinunci al lodo Alfano. Opel, domani la scelta, Marchionne è fiducioso dopo l'incontro con la Merkel, colloqui costruttivi, dice, ma ormai è diventata una lotteria, c'è anche un'offerta cinese. Tremonti, il sistema delle pensioni è ottimo, sta in piedi bene, no ad una riforma fatta per soldi, l'Istat sulla crisi, in difficoltà una famiglia su cinque, ma l'Italia ce la farà. Roma si prepara alla finale di Champions domani, Manchester United e Barcellona già nella capitale, attesi 50.000 tifosi, scattano le misure di sicurezza, ultimi biglietti venduti a centinaia di euro. Bene, andiamo a Rimini. Giacomo, buonasera. Buonasera, salve. Prego. Niente. Allora, io innanzitutto premetto, visto togliendo ogni dubbio, premetto che sono uno di sinistra e vorrei dire che sostanzialmente se la sinistra pensa di risolvere i suoi problemi di nuovo attaccando Berlusconi, beh, rimaniamo all'opposizione altri 20 anni. Detto questo vorrei dire innanzitutto che Berlusconi è il più problema per la destra, a mio avviso, e già se ne stanno vedendo delle avvisaglie, nel senso che la questione in Sicilia, le esternazioni di Fini, Berlusconi nei prossimi anni diventerà sempre un problema maggiore per la destra. in quanto impedisce a alla destra italiana di diventare una destra europea. Questo è evidente, è sotto gli occhi di tutti. Però mi scusi, Giacomo, questi stessi discorsi si facevano già 5, 6, 7, 10, 15 anni fa. Però oggi mi sembra abbastanza di attualità, insomma, vedo che qualcuno scalpita a destra in proposito. Non insomma, che Lombardo possa diventare un modello per la destra europea, ma mi non sembra bizzarro. Lombardo no, ma Lombardo è sintomo di un malessere che andrebbe... Ma quelle sono questioni, meglio, quelle sono questioni interne siciliane. Certo, ma qui sta anche il punto di come si è stata organizzata la destra italiana, affidandosi poi anche a un Lombardo per completare l'opera, no? Mi sembra un po'... Ma guardi, in Sicilia è successo un tale guazzabuglio prima delle elezioni che evidentemente questa soluzione era una soluzione... Però è successo in nome di pericolante sin dalla partenza. È successo in nome di una causa, se non altro vediamo che il governo Berlusconi ha 3 ministri, 4 ministri siciliani. La seconda più alta carica della Stato proviene dalla Sicilia, un perché c'è, insomma, la Sicilia è il fulcro, uno dei fulcri del potere berlusconiano, o no? Sì, sì, se no, lì qualcosa si incrina in ogni caso, no? Sì. È sempre evidente. Non lo so, guardi, lei fa previsioni fosche sul futuro di Berlusconi da appena un anno dal suo governo, non lo so, può darsi che abbia ragione Polito quando dice che è già iniziato il declino, o addirittura Gad Lerner che pensa che proprio questa questione delle donne sia l'inizio del declino di Berlusconi. Non lo so. Nino da Bologna, buonasera, velocemente perché andiamo verso la conclusione. Nino, dica. Mi sto accostando un attimo solo, eccomi qua. Buonasera Cruciani. Prego. Ieri ho ascoltato la telefonata di Paolo Villaggio. Sì. E devo dire che sono rimasto molto molto infastidito. Ho percepito un'arroganza, quasi un razzismo nei confronti, io ritengo, della maggior parte degli italiani, in quanto noi italiani siamo, io mi reputo un fantozzi, come la maggior parte degli italiani, gente che lavora, che ha un certo tipo di vita, la gente che oggi in un momento come questo sta soffrendo più degli altri, che vive forse più di certi personaggi intellettuali di sinistra, il problema dell'immigrazione, i problemi di tutti i giorni. E proprio ho avuto questa sensazione proprio della presunzione di un certo gruppo di persone che si creda al di sopra di tutti. Nino, non so se questa cosa abbia contagiato anche Paolo Villaggio, però certamente le sue parole ieri sono state abbastanza chiare da questo punto di vista. La ringrazio. Gabriele, sempre da Bologna, buonasera. Buonasera, purtroppo non sono riuscito a sentire in auricolare la risposta che le è stata data da due interlocutori fa, da Brambilla, sul tema della menzogna, perché io volevo riproporre la sua attenzione, la sua riflessione, l'argomento della menzogna, che è stato affrontato forse in una maniera un attimino superficiale, cioè forse alla radice stessa della democrazia, quando ci mettiamo d'accordo per fare gestire la cosa pubblica da qualcuno, poi ci aspettiamo che questo qualcuno sia assolutamente trasparente e sincero alle nostre domande. È lo stesso tema che avevamo ai tempi di Tangentopoli, era d'accordo, c'è efficienza anche se un po' di corruzione alimenta l'efficienza. Io pensavo che invece la riflessione dovesse andare oltre, cioè non è pensabile che ci venga nascosto come viene gestita la cosa pubblica, come viene gestita in realtà la cosa pubblica, anche se ciò produce maggiore efficienza. Saremo poi noi a decidere se ciò porta maggiore efficienza o meno, ma prima vogliamo sapere veramente come vanno le cose e dobbiamo poterci fidare. È un tema che, bene o male, in numerose democrazie, come al solito anglosassoni, gli esempi sono sempre quelli, è centralissimo. Non mi sembra che sia un tema bacchettone, non mi sembra che sia per forza. No, ma non è assolutamente un tema bacchettone, bisogna vedere ovviamente la qualità delle menzogne, la qualità delle bugie dette, se poi si rivelano bugie naturalmente. Per adesso sono contraddizioni su date, Repubblica le battezza bugie clamorose da parte del Premier, e secondo me bisogna vedere, come ha detto Brambilla, se poi si tratta di, come dire, di questioni di Stato, insomma, sulle frequentazioni private ognuno può dire anche, io credo che sia lecito anche dire delle piccole fesserie o no? Ma forse era meglio dire, preferisco non rispondere. No, ma lei su questo ha ragione, guardi, io penso che Berlusconi si sia un po' fregato con le mani sue, perché si sono rivelate queste bugie una catastrofe dal punto di vista mediatico. La ringrazio. Marco da Messina, buonasera. Buonasera, dottore. Dica. Senta, io riscontro delle gravi anomalie, quasi patologiche, nelle affermazioni della signora Veronica Lario. Perché la moglie di un presidente del Consiglio, già in precedenza, si rivolge a due quotidiani, soprattutto a Repubblica, facendo delle affermazioni di tipo personale, investendo invece i giornali come se fosse lei la presidente del Consiglio. Primo. Secondo luogo, adesso ha fatto delle affermazioni ancora più gravi, parlando di minorenni, che faccia i nomi. I giornali invece di chiederlo a Berlusconi, un gentiluomo, quando anche avesse conosciuto una donna, non dice certamente il nome, non dice certamente quello che ho fatto. O Repubblica, quando vanno questi signori a letto con altre, con le mogli degli amici, lo spifferano in giro dappertutto. Non si dice, un gentiluomo quando conosce una donna la dimentica. È una vecchia regola anglosassone che vige ancora adesso nell'etica della condizione umana. Ora io mi chiedo, perché i giornali tipo Repubblica non fanno le domande alla signora Lario? Che dica chi è questa ragazza, nome e cognome, che dica dove si sono incontrati, quando, che dica cosa ha fatto, l'ha violentata, l'ha stuprata, ha fatto l'amore con lei. Queste cose non le ho ancora sentite dire. Diceva bene Ferrara ieri. Ma che dicano, dite la verità, dite quello che pensate. Nessuno. Quindi ha creato. Ora io dico, questa signora Veronica Lario, le cose sue private, ci sono milioni di donne in Italia che hanno questi problemi, donne e uomini, che hanno questi problemi nella loro vita privata, ma non lo vanno a spifferare sui giornali, in giro, insomma. E lei si permette, ma perché lei è diversa dalle altre donne, che cosa ha di più? Che mi dica che cosa ha di più. Dovrebbe raccogliere, se ne è rimasta un po' di dignità di donna, raccogliere le sue forze e chiedere scusa alle donne italiane, a tutte le donne italiane, in quel senso, e rimettersi in un canto e divorziare dal suo marito. È l'unica cosa quello, che ne è rimasta quello, da fare. Quello Marco lo stia facendo. La ringrazio molto. Maria da Milano, buonasera Maria. Sì, buonasera dottor Cruciani. Senta, io mi sono sentita chiamata in causa all'inizio dall'intervento di Gad Lerner, quando dice che le donne italiane, soprattutto quelle di una certa età, perché io ho 57 anni, la faranno pagare a Berlusconi. Ora, io non so se voterò o meno per Berlusconi, poi non è il caso che lo dica adesso, però insomma voglio dire, io credo che le donne italiane abbiano un po' altro da fare che farla pagare a una persona, a questo anziano bavoso, come dice, no, Gad Lerner, che peraltro riempie la sua casa di ragazze che sbavano per mettersi in mutande e andare a ballare alle 7 di sera in una fredda sera d'inverno in televisione. Di chi sta parlando, scusi? Di queste qua che vogliono andare a fare le veline, cioè alla sera all'ora di cena sono tutte lì in mutande che ballano, e che ballino pure, lo facciano, per carità di Dio, ringraziando Dio, non ci sono solo le veline. Cioè voglio dire, quindi no, guardi, una donna italiana, scusi, ma cosa vuole che gliene importi delle veline che vogliono andare a ballare del sì, no, ma Lerner è fissato che Berlusconi abbia instillato in Italia una certa cultura del corpo femminile. Io non la penso assolutamente così, penso che non ci sia nessun modello culturale che Berlusconi abbia imposto o che le televisioni di Berlusconi abbiano imposto. Dobbiamo chiudere, ci sentiamo domani 18:30.